figli di un Dio minore. Cronache e storie di impegno sociale. Buona giornata da Valentina Furlanetto, benvenuti a questo consueto settimanale appuntamento con i temi del sociale. Oggi parliamo di Telethon, una fondazione ma anche una maratona televisiva, un gigante del terzo settore del quale stranamente finora non ci eravamo mai occupati. Lo facciamo in occasione del ventennale della ormai tradizionale maratona televisiva e anche perché c'è un nuovo direttore generale della fondazione, Francesca Pasinelli, con la quale abbiamo parlato di alcuni nodi che riguardano la ricerca. Telethon infatti si occupa della raccolta fondi per la ricerca sulle malattie genetiche. Dal 91 ad oggi ha finanziato 2.199 progetti di ricerca su più di 440 malattie genetiche, investendo quasi 300 milioni di euro. I fondi sono serviti a sostenere 1.364 ricercatori impegnati in università, istituti pubblici e non profit in tutta Italia. Un bilancio di questi 20 anni lo facciamo proprio con Francesca Pasinelli. Siamo nati per volontà di un'associazione di pazienti, l'Unione Italiana per la lotta contro la distrofia muscolare, che si era presentata come gruppo di interesse, diciamo, no? Essendo una malattia rara e come tutte le malattie rare un po' trascurata dagli investimenti pubblici e soprattutto da quelli privati della ricerca, i pazienti hanno chiesto ad un ente, quindi hanno deciso di fondare un ente che desse voce alle loro istanze e che garantisse il finanziamento di una ricerca finalizzata a individuare le cause e poi anche a trovare delle strategie terapeutiche per le loro malattie. Poi vi siete ampliati e adesso Telethon si occupa di diverse malattie genetiche. Infatti, 2 anni dopo la nostra fondazione, la missione è stata estesa a altre malattie genetiche, alle malattie genetiche in generale, con un focus su quelle rare, proprio perché più associazioni di pazienti hanno chiesto a Telethon di rappresentarle. Noi ci occupiamo di malattie che in molti casi sono rappresentate da una decina di pazienti soltanto in un paese come l'Italia e quindi chiaramente sono malattie che non rappresentano mai un mercato interessante, per esempio per un'azienda farmaceutica che sviluppi delle terapie. I pazienti che sono affetti da queste malattie sono pazienti che già devono attraversare dei veri e propri calvari alla ricerca di una diagnosi certa della propria malattia, perché molto spesso neanche i medici capiscono di che malattia si tratti, perché la rarità fa sì che il medico non l'abbia mai vista nel percorso di carriera anche di molti anni. Ma poi certamente una volta fatta la diagnosi non c'è nessuno che si occupi di trovare una cura. E quindi per questo è stata allargata la finalità e devo dire in questi 20 anni noi abbiamo ottenuto grandi successi. Telethon è conosciuta, diciamo la verità, per la maratona televisiva alla quale è collegata, quindi anche per i personaggi pubblici e televisivi che ci mettono la faccia. Voi ogni anno fate una maratona, l'ultima com'è andata? E direi siamo sostanzialmente stati stabili, ma consideriamo questo già un successo. Certamente noi siamo riconosciuti per la maratona, che è l'evento che ci dà visibilità attraverso il quale raccogliamo fondi. Noi però siamo molto altro rispetto alla maratona, perché siamo poi una macchina che lavora invece tutto l'anno per emettere dei bandi di concorso finalizzati alla spesa dei soldi raccolti, quindi per selezionare i progetti di ricerca che i ricercatori italiani ci propongono. E nel meccanismo di selezione credo noi abbiamo affinato la nostra principale competenza. Credo che se dobbiamo dire in questi 20 anni qual è stato il nostro più grande successo finora sul piano degli strumenti utilizzati, la valutazione dei programmi di ricerca e l'assegnazione di fondi esclusivamente per merito, per cui vengono finanziati soltanto i migliori. Quindi ricorriamo ad una valutazione esperta ed indipendente, che come tutte le valutazioni fatte dagli esseri umani può anche essere fallace, ma certamente è un sistema teso a minimizzare invece il rischio d'errore e abbiamo dei dati che dimostrano che così facendo abbiamo veramente selezionato l'eccellenza nel paese. Per quanto riguarda invece i fondi, fatto 100 diciamo il totale che raccogliete, come vengono distribuiti? Quanto viene dato alla ricerca, quanto al personale, quanto al marketing? L'anno scorso abbiamo chiuso con il 78% dei fondi destinati alla ricerca e il 22 invece destinato sia ai costi di raccolta che ai costi di struttura, perché chiaramente c'è tutta una struttura da noi che opera tutto l'anno, per esempio nell'assegnazione dei fondi, per esempio in questi programmi di valutazione, di monitoraggio della ricerca, di gestione diretta di tutti i fondi che vengono assegnati ai ricercatori italiani. E invece a che risultati sono arrivati le vostre ricerche? Perché voi finanziate le ricerche, ma chiaramente i donatori vorrebbero anche sapere se hanno avuto buon esito. Certo, la ricerca infatti è uno strumento per arrivare ad un obiettivo che è la cura. E noi abbiamo ottenuto notevoli risultati perché per una di queste malattie abbiamo già messo a punto una cura definitiva, una rara immunodeficienza che è appunto genetica e quindi che si esprime già dai primissimi mesi di vita, per cui i bambini privi di difese immunitarie sono costretti a vivere in ambiente sterile, i famosi bambini bolla. Ecco, noi per questa malattia abbiamo messo a punto una terapia che ha curato definitivamente per ora 13 bambini ed è una terapia per la quale stiamo cercando un'autorizzazione dalle autorità regolatorie proprio per farla passare da un regime di ricerca ad un regime d'assistenza. Ma dica. Questo disturbo dei bambini bolla quanto è diffuso? È una malattia rara chiaramente, ma per farci un'idea quanti bambini o persone così ci sono in Italia? Ma dunque il numero esatto in Italia è nell'ordine delle poche unità, tenga conto che si pensa che ci siano nel mondo circa un 35-40 bambini ogni anno, nuovi ogni anno. Che vivono isolati, quindi hanno una qualità della vita abbastanza labile. Incompatibile, sì, cioè una qualità della vita bruttissima e tra l'altro a perenne rischio di una vita brevissima, mentre questi bambini che abbiamo trattato conducono una vita assolutamente normale. Un dato interessante è che sono bambini che vengono da tutte le parti del mondo, sono venuti a curarsi in Italia nel nostro istituto di Milano, il TIGET, e quindi in un certo senso sono due ragioni di orgoglio che possiamo esprimere, no? Una è essere riuscito a curare questi bambini tra l'altro con una tecnologia innovativa, la seconda è avere portato in Italia a curare, quindi avere fatto un viaggio della speranza all'inverso, se vuole, rispetto a quello che molto spesso lamentiamo. Ora vi proponiamo un'intervista con Alessandro Modia Rore, che è il fondatore e il presidente dell'associazione Canguro Onlus Flies Aid, che ha attrezzato il primo aereo ospedale civile europeo. Sentiamo. Noi da 10 anni, ormai 11 anni, facciamo voli umanitari in giro per il mondo, ci siamo sempre appoggiati a compagnie aeree che ci hanno aiutato. 4 anni fa abbiamo pensato di creare un aereo ospedale, cioè mettere su delle apparecchiature mediche specialistiche su un velivolo e arrivare il più vicino possibile alle persone che hanno bisogno. E così è nato questo progetto che finalmente ha visto la luce domenica scorsa. Abbiamo inaugurato l'aereo ospedale presso l'aeroporto di Orio al Serio a Bergamo. Che tipo di aereo è? È un aereo nel quale ci sono proprio delle sale operatorie? Sì, allora l'aereo è un Fokker 27, è un aereo da, quando è in configurazione passeggero, un aereo da 50 posti a sedere. Noi ne abbiamo solamente lasciati 12 in coda e poi trasporteremo le apparecchiature mediche con noi dentro delle casse. Una volta arrivati a destinazione montiamo una tenda pneumatica esternamente e allestiamo le due sale operatorie. E inizialmente andremo ad operare quella comunemente chiamata cecità curabile o strabismi, quindi patologie degli occhi. Problema molto, molto grave, molto diffuso nei paesi in via di sviluppo e come potete immaginare molto invalidante, quindi con un intervento di più o meno 10-15 minuti a occhio gli si può restituire la vista e quindi far tornare queste povere persone a una vita normale e produttiva, diciamo, per le proprie famiglie, per se stessi. Chi sarà a bordo? E saremo due piloti, dopodiché ci saranno sempre con noi, varieranno da missione a missione, comunque la crew medica che varia dalle 6-7 persone, in più i nostri tecnici che ci seguiranno sia per la parte manutentiva del velivolo che per, diciamo, coordinare tutta la missione. Diciamo. La prima missione è proprio in Burkina Faso ai primi di aprile? Sì, la prima missione è il 3 di aprile, partiremo per il Burkina Faso e ci è sembrato doveroso poiché il velivolo l'abbiamo immatricolato in questo paese, abbiamo avuto un supporto grandissimo da parte dell'ente aeronautico dell'aviazione civile del Burkina Faso, quindi appunto, come dicevo, ci sembrava doveroso andare ad intervenire lì, che tra l'altro è uno dei paesi più poveri al mondo. In chiusura invece ci occupiamo di un altro argomento, ossia degli adolescenti, dei ragazzi di strada, ma anche dei ragazzi che finiscono in carcere. Ne abbiamo parlato con il cappellano del carcere Beccaria, Don Claudio Burgio, che ha scritto un libro dal titolo Non esistono i cattivi ragazzi, che è uscito da poco in libreria. Sì, è una sorta di narrazione un po' autobiografica delle esperienze, degli incontri vissuti in questi ultimi anni. Sono ragazzi per lo più ragazzi di strada? Sì, non solo, perché infatti racconto anche nel libro anche di ragazzi di famiglia bene, al Beccaria arrivano anche ragazzi della Brianza, tanto per dire, magari qualcuno proviene anche da percorsi di oratorio, di parrocchia. Che finiscono in carcere per che cosa? Soprattutto per reati di spaccio, a volte anche rapine, ma proprio perché non osano chiedere ai genitori, hanno come se fossero un dialogo interrotto con i genitori, per cui famiglie molto affettive solitamente, che però impediscono al ragazzo di poter uscire allo scoperto, insomma, di poter essere veramente se stesso. Che vuol dire famiglie molto affettive? In genere sono mamme molto affettive, molto calde, molto accuditive, quindi famiglie fra l'altro che insomma, rimangono sconvolte nel momento dell'arresto perché non si accorgono di questa specie di seconda vita dei loro figli. Quello che manca dunque, secondo lei, secondo la sua esperienza, non è tanto l'affettività, ma forse i paletti, le regole? Sì. Questo non saper dare dei limiti, ecco, questo è il problema dei genitori, di questo tipo di genitori. Che chiaramente parliamo dei ragazzi bene in questo caso. Sì. I quali sanno giocare molto bene sui ricatti affettivi e su una serie di strategie per le quali poi i genitori vanno a negoziare parecchie regole fino a poi di fatto non tenerne una. Per cui in genere a volte anche genitori la cui figura paterna c'è ma è molto poco presente, ecco. Cioè poco autorevoli, poco capaci di dare riferimenti anche etici, normativi e poco presenti a volte, ecco. Per cui la mamma in genere è quella che a cui viene delegata tutta la questione educativa di un figlio. Invece per quanto riguarda diciamo i veri e propri ragazzi di strada che incontra sia al Beccaria che nelle comunità, credo alcuni in gran parte stranieri. Diversi ragazzi stranieri, anche se ormai da quasi 4-5 anni i ragazzi italiani comunque sono più che mai presenti. I ragazzi stranieri hanno storie di migrazione, quindi o di non facile integrazione, nel caso delle bande sudamericane, per esempio, che in genere sono anche autori di reati piuttosto pesanti. La difficoltà a integrarsi porta a chiudersi nel nucleo del gruppo, della banda, appunto, che in qualche modo riesce a sopperire a questa difficoltà di integrazione. Da Valentina Furlaneto è tutto, appuntamento domenica prossima 14:15, buona giornata.